fossi yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. L'idea della trasmissione di oggi me l'ha suggerita una meravigliosa esperienza psicogeografica che ho fatto questa mattina grazie allo sciopero della metropolitana romana. Rimasi bloccato all'altezza della stazione di Ottaviano una buona mezz'ora sottoterra assieme a delle persone che improvvisamente furono unite a me e alla mia emotività dal fatto che aspettavamo un treno, aspettavamo una tradotta, aspettavamo la salvezza per uscire da quelle tenebre. Arrivavano uno dopo l'altro tanti treni vuoti improvvisamente guidati da scioperanti, quindi cominciai a familiarizzare con le persone che stavano sotto la metropolitana. Venne un signore melogmane col gileino marrone di lana, lo ricordo, aveva una barbetta, mi riconobbe subito e mi disse: ma lei non sta sopra a fare la trasmissione? Dico: no, magari vorrei andarci, invece sto qua sotto. E mi offrì dei fazzolettini di carta, che ho bisogno di soffiarmi il naso e non sapevo come fare. Familiarizzai poi con una signora con la faccia molto brufolosa che a un certo punto, presa dallo sprovvisto, prese e se ne andò su, risalì le scalette e se ne andò verso la folla, verso la nebbia, non so poi che fine abbia fatto. Alla fine arrivò al treno, mi avrebbe portato alla stazione Termini. Era pieno zeppo, entrammo dentro fendendo la folla, quasi con il macete in mano. Cercammo degli spazi vitali, eravamo tutti accalcati. Immediatamente all'interno di quel vagone cominciarono ad aggregarsi dei sottoinsiemi di persone in ragione della stazione in cui sarebbero fermati. Ci sono quelli che scendevano, non so, alla Fontana di Trevi, a Piazza di Spagna, quindi cominciarono ad aggregarsi da tutte le parti del vagone. Io scendo a Spagna, cominciò a farsi un piccolo trenino umano all'interno del vagone e scese via la tradotta umana per Spagna. Poi Barberini, successivamente, alla fine si avvicinava alla fermata di Repubblica, alla cui sarei sceso io. Cominciai subito a prendere contatto con le poche persone che scendevano come me a Repubblica. Immediatamente potei conoscere una signora, una violinista, aveva sotto mano la custodia di un violino e la usammo come fendi folla, andava davanti a tutti, ci faceva largo attraverso i cingalesi, attraverso le signore, attraverso la puzza di cipolla. Ci sono un'infinità di odori la mattina nella metropolitana, quando si sta così appiccicati improvvisamente la promiscuità dei corpi dà immediatamente una familiarità che all'inizio è sgradevole, poi improvvisamente ci si rende conto siamo fatti tutti della stessa materia. Alla fine siamo usciti, siamo saliti lungo le scale, abbiamo visto il sole e oggi vi dedichiamo questa puntata dedicata a quanto lo spazio, a quanto l'ambiente possa incidere sulla nostra emotività. Che mestiere fai? Sentite, per cortesia, l'ho pregato, non mi toccate, non mi piace. No, dico tu, che mestiere fai? Ho ben capito, questo tu. Non mi piacciono le confidenze, non mi democrazia! Non sentir toccare, come me lo devo dire? Ah, neanche io, come se non mi tocca. Meno male, allora siamo d'accordo. Io prima facevo l'ostetrico. Beh, si capisce per forza. Si capisce che... Beh, con le ostriche si guadagna poco. Ma cosa avete capito? Fate una bella cassetta con le sigarette americane. Ho detto ostetrico, non lo guadagno la grana. Sì, poi vado in piazza e me le vendo. Ecco, per due sticche. Ma che due sticche? Sentite, non la voglio scherzare. Ma non faccio. Oh, fermo, basta del bacco! Ma come ho capito? Tanto per promostra adesso! Mi state toccando da 3 ore! E io sono stufo di sentire queste mani addosso, appiccicose! Come appiccicose? Come mani addosso? Siete voi che mi state toccando! Voi, non io! Va bene! Io tocco! Ma lei perché mi fai il ritocco? Ma che ritocco legito? Fate la cortesia! Guardalo! Sì, è lei che mi sta toccando! La stessa sensazione di felice scoperta di percorsi sotterranei che si aprono all'improvviso come se fossero delle fenditure nascoste nel territorio che di consueto noi attraversiamo non tocca minimamente Totò, che con l'onorevole Trombetta si litiga lo spazio vitale in un vagone letto. Farà delle cose terribili, butterà il bagaglio dal finestrino, faranno delle cose orrende. Perché? Perché evidentemente non c'è una percezione così aperta, così allargata della possibilità di condivisione anche delle aree parallele. Lo spazio personale. In generale, più due individui sono o si percepiscono simili, più aumenta il grado di vicinanza fisica. Tendiamo a stare più vicini a persone che vestono in modo simile a noi, della nostra stessa cultura e hanno il nostro stesso status sociale. È interessante notare che quando c'è da dividere il bracciolo in situazioni come pullman, treni, aerei o cinema, difficilmente lo si condivide con gli altri e ci sono differenze di atteggiamento nell'uomo e nella donna. Gli uomini si impossessano del bracciolo 3 volte di più delle donne. Le donne, poiché hanno uno spazio personale ridotto, soffrono in generale meno dell'invasione del loro spazio personale e sopportano anche con meno stress situazioni di sovraffollamento. 800 24 0024, come lo spazio che noi attraversiamo attraversa la nostra mente, qual è il rapporto fra i luoghi e le emozioni? Stiamo cercando di capirlo questa mattina. Già vedo che la reazione su Facebook è immediata, come se le persone dislocate in uno spazio parallelo, incorporeo, immateriale, attraverso la rete, ma anche uno spazio comune, entrambi guardiamo la stessa pagina, la stessa videata, quindi le nostre emozioni hanno modo di lambirsi alla stessa maniera che si lambiscano in un affollato vagone della metropolitana. Non sentiamo gli odori, ma è la stessa cosa. Dice Barbara, le piazze di De Chirico come immagine del luogo celebrale, ma è nel lasciarsi attraversare che vive l'emozione. Michele dice che peccato che è in ufficio, dovrà ascoltarmi in podcast, quindi sente in maniera asincrona quello che noi stiamo dicendo. Pietro dice, per molti lo spazio è vuoto, per me la ricerca di un luogo dove stare in pace con il mio io profondo. Beato lui che si ricorda di avere un io profondo, il nostro io è molto superficiale. Matteo ha appena dato un esame sui non luoghi e i luoghi di transito, gli stati emotivi che nascono in questi tempi di attesa più o meno lunga. Anche sulla famosa teoria dei non luoghi avrei molte cose da dire. Il non luogo ormai non è più definibile come un luogo indifferente che non lascia tracce su di noi, che tutti passano nella stessa maniera, gli aeroporti, le stazioni. Io comincio a sentire sensazioni individuali, personali, sotto tracce vitali anche nelle stazioni, anche nei luoghi sembrano uguali in qualunque parte del mondo. 800 24 0024. Il territorio. Mentre gli uomini si distinguono per una maggiore difesa del territorio, nella donna si assiste generalmente a un maggior attaccamento emotivo e alla personalizzazione del proprio territorio. Le donne, ad esempio, tendono più dei maschi a comprare complementi d'arredamento e oggetti decorativi come quadri, soprammobili, piante e tendaggi. Anche in ufficio, le donne, molto più degli uomini, tendono a personalizzare il proprio spazio o la propria scrivania con ricordi, fotografie, fiori e pupazzi o installando particolari salvaschermi raffiguranti immagini personali. È molto acuto pensare che anche la scelta del salvaschermo del proprio computer è una scelta ben precisa. Di default in molti computer, nel mio nuovo Mac meraviglioso appena comprato, esistono una serie di salvaschermi che danno immagini siderali. Ho scelto quello che dà i mondi. Improvvisamente, dopo un minuto di inattività, si apre l'universo, si entra nelle sfere celesti. È una bella sensazione, soprattutto al buio, lasciare il computer acceso e vedere che improvvisamente si aprono altri spazi. Ma molti mettono le immagini dei figli, mettono le immagini delle vacanze o mettono il tristerrimo salvaschermo di base con il logo della casa che fabbrica il sistema operativo. Beh, noi cominciamo questa mattina ad approfondire il rapporto fra ambiente, architettura e la mente che attraversa simbolicamente questi ambienti, facendo da guida alla carcassa umana che fa capo a quella mente, assieme a Marco Costa. Marco Costa, buongiorno. Marco Costa è un ricercatore, docente di psicologia ambientale a Bologna, che è autore del libro da cui abbiamo tratto l'idea, lo spunto e parte delle letture che avete ascoltato, che è Psicologia ambientale e architettonica, appunto come l'ambiente e l'architettura influenzano la mente e il comportamento. Edizione Franco Angeli. Allora, la mia esperienza questa mattina casuale della metropolitana trova che sia attinente rispetto a quello che lei ha studiato in questo libro? Certo, perché mette in luce come quando il nostro spazio personale tende ad essere invaso e cerchiamo di riguadagnare la nostra privacy mettendo in atto tutta una serie di comportamenti che in termini tecnici si chiamano di cut-off, cioè in cui cerchiamo di riguadagnare lo spazio personale. Questi comportamenti sono l'evitare di guardare direttamente negli occhi chi ci sta troppo vicino, oppure abbassare lo sguardo, oppure portare la mano ad esempio alla testa, oppure guardare fuori dal finestrino, oppure impegnarsi in attività terze come sono la lettura. Oggi molto usa fare finta di guardare i messaggi nel telefonino, dimenticando la metropolitana di Roma è inattiva, non è come a Milano, quindi non c'è nessun messaggio nuovo. Molti guardavano il telefonino come se ci fosse un imbarazzo nell'incrociare a distanza di 3 centimetri lo sguardo degli altri. Sì, giustamente, sono tecniche di cut-off, cioè di si cerca di tagliare l'ambiente esterno per riguadagnare lo spazio personale in condizioni in cui ci sentiamo sovraffollati. Tipicamente un'esperienza diciamo ancora più pronunciata in questo senso è l'esperienza dell'ascensore affollato, in quanto l'ascensore affollato è uno spazio chiuso, non permette vie di uscita durante, durante il movimento, e quindi anche in questo caso si tende a guardare costantemente il numero del piano, a leggere ripetutamente il carico massimo dell'ascensore. Ci si guarda le scarpe. E ci si guarda le scarpe. I polsini della camicia, insomma una serie di gesti per saturare l'imbarazzo e trovarsi in intimità con delle persone che non si conoscono. Esatto, oppure lo studente in biblioteca che studia ad esempio in modo impegnato ed in una biblioteca affollata tende a mettersi la testa nelle mani e in questo caso tende a escludere la vicinanza degli altri, a riguadagnare maggiore concentrazione. Quindi noi abbiamo, professore, possibilità di riscrivere continuamente dei nostri spazi individuali in qualunque tipo di architettura ci muoviamo? L'architettura agisce molto sulla nostra percezione delle distanze interpersonali e su questo diciamo vivono alcuni ambienti particolari, come ad esempio la discoteca. È impensabile una discoteca ad esempio ad altissima luce. Le discoteche sono a bassa luce o con luci intermittenti, perché la bassa luminosità favorisce il contatto personale, favorisce la disinibizione e favorisce il colloquio con estranei. La discoteca è un ambiente sovraffollato, ma per incitare il contatto personale con gli altri, malgrado il sovraffollamento, si utilizzano bassa luminosità. Così le posso fare una domanda, professore, personalissima? Sì. A casa mia, con la mia famiglia, con cui vivo da una quindicina d'anni circa, esistono delle diverse percezioni della piacevolezza della luce. Io molte volte torno a casa, trovo i miei figli che stanno in ambienti con luce squallida, la definisco come tale, cioè accendono una luce centrale e non si rendono conto che è terribile. Spengo la luce e accendo delle luci laterali. Mi è capitato di andare ospite di amiche mie a cena e sono stato costretto ad andare a prendere l'abat-jour che avevo in camera da letto, spegnere tutte le luci per avere una luce che a me permettesse di essere felice. Perché c'è una differenza di percezione così netta rispetto alla piacevolezza dell'illuminazione di un ambiente? Beh, diciamo che la piacevolezza dell'illuminazione dell'ambiente deriva da illuminazioni non centralizzate, ma illuminazioni con alto contrasto, quindi piccole luci contrastanti, e in questo modo si illuminano anche i monumenti, mettendo in luce quelli che sono gli aspetti più estetici. Ma non tutti hanno questo tipo di percezione, per molti è come un daltonico, non vedo la... Dico, ma perché? Che differenza c'è? Mi dicono. La differenza non è nella percezione dell'estetica, la differenza è nell'attitudine. Diciamo, ci sono persone che hanno un'attitudine funzionale. L'attitudine funzionale è che per vedere bene occorre una luce centrale molto forte e quindi un'illuminazione uniforme, che è quella che si adotta negli ambienti di lavoro. Persone che hanno una tendenza più, diciamo, estetica, un maggior apprezzamento delle caratteristiche estetiche, invece favoriscono un tipo di illuminazione contrastata con molte fonti luminose che agiscono su contrasti. Quindi nella stessa famiglia c'è un contrasto fra un esteta e dei funzionalisti, delle persone che razionalizzano in maniera... Esatto, che utilizzano più l'illuminazione per caratteristiche funzionali, cioè per favorire ad esempio la lettura. Sentiamo Isabella, mi scusi professore. Isabella, buongiorno, prima ascoltatrice. Isabella? Oddio mio. Pronto? Eccola Isabella, sì. La sento un po' metallica, ma la sento. Anch'io non vi sento molto bene. Comunque io vi volevo parlare invece della patologia che esce da questa situazione della vicinanza con gli altri. Io ho sofferto per molti anni di attacchi di panico e l'attacco di panico ha proprio come espressione più terrificante, perché comunque è una situazione che ti mette fortemente a disagio, la fobia della vicinanza degli altri. Quelle belle file agli sportelli. Quelle belle folle accalcate. La metropolitana, gli ascensori, ma anche l'auto. Il fatto di avere qualcuno nell'auto con me era un motivo di terrore proprio. E come l'ha superato? E per un anno non ho potuto uscire di casa. Beh, questo parliamo di un aspetto patologico, nel senso che aveva una percezione distorta, probabilmente data da dei motivi di tipo organico, biologico, non sono io a dover definire qual era l'origine. A parte questo, l'ambiente come influenza la sua felicità, la sua emotività, la sua percezione degli altri dello spazio, una volta superato il problema del fastidio della folla. Non non si supera mai. La verità è questa, che almeno io sono sempre stata piuttosto socievole, una persona molto aperta, non ho mai avuto problemi di rapporti con gli altri, ma ad un certo punto è scattato qualcosa e nonostante poi negli anni la cosa l'abbia superata, ho capito che tantissime persone che sembrano apparentemente normali in realtà covano sotto questa, questo forte disagio della vicinanza degli altri. Poi se uno è in una situazione psicologica perfetta lo supera, lo insomma resta vicino agli altri senza problemi, altrimenti è facile che scatti un meccanismo di difesa dei propri ecco, spazi. Professor Marco Costa, rispetto a quello che ha detto la signora, che ha il suo problema particolare di tipo psichico e via dicendo, ma leggo spesso nel suo libro la diversa percezione che hanno gli uomini e le donne del rapporto fra spazio, emotività, mente e ambiente. Sì, esiste una differenza fondamentale tra maschi e femmine nella gestione dello spazio, ed è che i maschi tendono ad avere una maggiore territorialità e quindi ad avere uno spazio personale che tende ad essere più grande rispetto a quello delle femmine. E questa differenza la si ritrova anche in altri animali, è abbastanza forte e porta al fatto che le femmine tendono a percepire il contatto, adesso a parte il caso dell'ascoltatrice, tendono a percepire il contatto di vicinanza con gli altri in modo meno invasivo. Ecco. Cioè sono più tolleranti rispetto alla fisicità altrui? Esatto, e già nell'adolescenza, ad esempio, le femmine si toccano molto di più. Vanno sempre in bagno assieme. Hanno molti più contatti corporei. Viceversa nei maschi, anche maschi amici con un grado di amicizia molto profonda tendono a non arrivare a contatti personali molto forti, anche per un evitamento di etichettamento come omosessuale. Sì, l'uomo ha paura di essere frainteso, di dire ma esatto, se abbraccio dopo questo amico mio chissà cosa esatto, potrà pensare. Ho studiato un fenomeno molto interessante ed è che quando nelle triadi composte da due femmine e un maschio, sì, è una situazione felice, sì. Il maschio tende sempre a posizionarsi lateralmente e non al centro delle due femmine, oppure tende a mettersi secondo dei gradi di angolazioni leggermente diverse, ad esempio le due femmine stanno fianco a fianco e il maschio tende a posizionarsi con un certo angolo di interazione, e questo angolo di un punto di osservazione, diciamo, cerca piuttosto che un punto di contatto comune. Esatto, cerca di, con queste differenze dal punto di vista prossemico, cerca di sottolineare il fatto che lui è sì in un gruppo a componente a maggioranza femminile, però lui è un maschio. Viceversa, nella situazione in cui ho una triade composta da due maschi e una femmina, la femmina non esibisce questa preferenzialità e può posizionarsi al centro o di lato. È molto di vedute, molto più aperta e meno inibita dal punto di vista di quello, sì, che è l'occhio esterno. Quindi è sempre un osservatore ipotetico esterno che condiziona il nostro comportamento. Melog 2.0. Verso le tre il Duca Conte ebbe una formidabile botta del suddetto culo, beccandosi un banco clamoroso. Che stava facendo lei? Io mi permettevo di bere un goccettino di acqua minerale. Continui, continui. In due ore Fantozzi ingurgitò quattro casse di acqua Berthier, ma in compenso in quelle due ore salì vertiginosamente quasi tutti i gradini della gerarchia aziendale. Impiegato di settima, scrivania in mogano, poltroncina in scaio finta pelle, telefono pianta di ficus, simbolo del potere. Impiegato di quinta, lampada di opalina, piano di cristallo, naif jugoslavo alla parete, due piante di ficus. Impiegato di prima, quattro piante di ficus, tre telefoni, dittafono, sei quadri naif, tappeto e moquette per terra. Era arrivato fino alla soglia della dirigenza, vale a dire serra di piante di ficus e poltrona in pelle umana, quando la fortuna voltò rovinosamente le spalle al Semenzara. Nessuno come Fantozzi è un perfetto equilibratore degli spazi che determinano anche il livello gerarchico che li occupa, soprattutto negli ambienti aziendali, soprattutto negli ambienti di lavoro. Anche lo spazio, il luogo di lavoro è importante perché è diviso a seconda del rango delle persone che lo occupano. Immaginate quanto in un ufficio sia ambita, la stanza e l'ufficio più vicino ai luoghi del potere del comando. Io per anni ho lavorato in un'importante azienda di servizio pubblico e ricordo questo particolare che non posso fare a meno di raccontarvi. Nei 7 piani del palazzo di cristallo del potere televisivo esisteva il 7° piano, che era l'unico rivestito di moquette anche alle pareti, moquette color tortora, che era il piano dirigenziale, il piano dove stava il Sancta Santorum, dove stava il Duca Conte, dove stava il consiglio di amministrazione, dove stanno i direttori. All'8° piano, in realtà piano neutro, c'era la mensa aziendale. Le povere impiegate dei piani bassi, i poveri programmisti registi dei piani infimi, i poveri programmatori, ragionieri, postulanti, aspiratori e aspiratrici soprattutto, ogni volta che dovevano recarsi al bar o alla mensa aziendale, c'era un ascensore che portava dal 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° piano all'8° piano. Normalmente si poteva salire nell'ascensore, no, scendevano al 6° piano per fare a piedi la scalettina e transitare attraverso il corridoio foderato di moquette color tortora del 7° piano, per respirare il profumo del potere, per camminare con passi felpati su quella sorta di tappeto dirigenziale, per poter vedere se era possibile osservare, occhieggiare nello spiraglio di una porta magari lo sguardo, un lampo di grisaglia, un'occhiata complice, una mano assassina e malandrina che li ghermiva e li portava dentro, li portava a contatto con quello che era la massima aspirazione. L'open office. L'open office permette un aumento considerevole delle comunicazioni fra gli impiegati, con conseguente incremento del flusso di lavoro. Gli aspetti negativi sono almeno due: incremento della distrazione tra i lavoratori che hanno grande difficoltà a concentrarsi e, in secondo luogo, mancanza di una privacy adeguata perché le conversazioni personali sono facilmente intercettabili. È interessante notare come la disposizione dei posti di un open office possa seguire una chiara gerarchia. Può succedere, ad esempio, che nelle zone centrali più esposte oppure in prossimità degli ingressi o dei corridoi di passaggio siano disposti gli impiegati con mansioni di più basso livello e che, viceversa, quelli con mansioni superiori siano dislocati nelle parti più protette e meno visibili. Infatti, ricordo con esattezza, visto che la circostanza autobiografica è quella che più rende il senso in un'idea, che Fabrizio Intonti ed io, quando giungemmo alla nuova sede di Radio 24, dovemmo difenderci a colpi di mannaia per ottenere la postazione a destra, entrate la porta, quella nascosta agli armadietti, quella soffocata dal quadro elettrico, quella dove sta anche il carrello porta vivande, pur di avere una cosa delimitata da uno spazio nascosta in cui si avesse un minimo di intimità. Questo è molto importante anche perché in luoghi di lavoro in cui oggi la trasparenza è sintomo di efficienza, in realtà si vede che poi le persone, quando devono personalizzare, nascondere e togliere al rumore collettivo la propria individuale voglia di avere un attimo di solitudine, cominciano a costellare quegli spazi meravigliosi vetrati, io non so, con ritagli di giornale, con foto di figli, con ricordi del mare, con piccoli cotillon, con babbo natali cinesi luminosi. Insomma, si cerca sempre di personalizzare ciò che dovrebbe essere nella sua spersonalizzazione il sintomo di uguaglianza e di efficienza. Abbiamo al telefono Marco Costa, come già ho presentato, è un docente di psicologia ambientale a Bologna, che ha scritto questo interessante libro da cui ci stiamo ispirando, che è Psicologia ambientale e architettonica, come l'ambiente e l'architettura influenzano la mente e il comportamento, editore Franco Angeli. Marco Costa, l'ambiente dei luoghi di lavoro naturalmente non è determinato né dal nostro gusto, né dalla nostra scelta, né dalla nostra voglia di ritagliarsi un ambiente. Più l'ambiente è spersonalizzato, più è meschino e miserrimo il tentativo di renderlo personalizzato. Perché accade questo? Sì, ha toccato un punto molto importante, ed è che l'attaccamento ai luoghi, cioè la propensione a considerare i luoghi come espressione della propria identità, sono funzionali al grado di personalizzazione che possiamo operare sull'ambiente. Quindi molto importante dare possibilità al lavoratore di cercare di personalizzare il proprio ambiente di lavoro, e in questo modo aumentiamo sicuramente l'attaccamento del lavoratore al proprio luogo. Personalizzare significa dare la possibilità al lavoratore, ad esempio, di mettere immagini dei propri familiari oppure di decorare in un certo modo il proprio luogo di lavoro. E gli studi sono molto chiari, nel senso che più è il grado di personalizzazione e più il lavoratore tende ad esprimere soddisfazione. Sarebbe da fare uno studio sul kitsch e il barocco da scrivania dell'impiegato medio, che è una cosa terrificante. Però hanno una funzione molto importante, che è quella di togliere il senso di anonimità ed una sorta di marcatura del territorio. Guarda, io ricordo un'anziana collega di tanti anni fa che ebbe il privilegio nell'asettico territorio professionale Saxaruba di portarsi la pedanina da mettere sotto i piedi di legno. Sì. E quando le andò in pensione fu un reperto ambitissimo, se lo contesero a colpi di mannaia, proprio per avere ognuno con la pedanina che dava un senso di rango, di diversità. Un affare di legno schifoso era. Certo, questo è un principio molto importante e vale sia nei luoghi di lavoro sia nei luoghi residenziali. Ad esempio, è impressionante vedere come nei condomini uno spazio pubblico, come potrebbe essere il giardino del condominio, se viene assegnato al condominio, a tutti, e quindi è di nessuno in particolare, tende ad essere trascurato. Anzi, occorre proprio che venga assegnato a qualcuno la manutenzione, altrimenti viene trascurato. Se viceversa si dà la possibilità ad ogni condomino, parcellizzando questo territorio comune, di coltivare la piccola quota di giardino assegnata, si vede un cambiamento repentino e di gran lunga in meglio, nel senso che a questo punto, avendo la possibilità di personalizzare, i condomini fanno a gara l'uno con l'altro per cercare di decorare. Qualcosa che accade in questo periodo particolare con le decorazioni natalizie, le orripilanti decorazioni sul portone di casa, i Babbo Natali gonfiabili fuori della finestrina, insomma ognuno cerca di dare senso alla festa, però moltiplicando con oggetti di comune uso l'omologazione dei luoghi. Io avrò nel palazzo di fronte al mio almeno 7 Babbo Natali con la scaletta gonfiabile, quindi equivale a nessuno. Esattamente, tant'è che questa spinta alla personalizzazione è talmente forte nella psicologia umana che spesso va a detrimento dell'estetica ambientale, perché anche il graffito che viene fatto imbrattando i muri nelle città ha comunque uno spazio, ha comunque un significato di marcatura territoriale, di personalizzazione del territorio, e ci sono degli studi molto chiari che dimostrano come nei diversi quartieri, diciamo, i giovani che risiedono in diversi quartieri tendono ad adottare dei simboli particolari con cui marcano i muri del loro territorio. Comunque anche le marchiature, come lei appunto ci sta dicendo, diventano dei luoghi comuni talmente evidenti, talmente che talmente si riverberano comunque nell'uso comune che non marchino più nulla. Sentiamo Bianca. Bianca, buongiorno. Ah, buongiorno. La sto ascoltando. Guardi Nicoletti, quello che sto per dire sicuramente risulterà antipatico, perché la mia è un'esperienza, diciamo, di doppia residenza, di residenza qui in Italia nella provincia di Varese e anche di una residenza di un altro paese all'estero. Questa trasmissione effettivamente la mia chiamata è stata abbastanza d'impeto, nel senso che è da diverso tempo che sto ragionando sulla differenza dei comportamenti in società, diciamo anche nel senso stretto, quindi condominio, ufficio, città molto più prossima a noi, tra i due paesi, nel senso che... E perché dovremmo sconvolgerci per questo che tutti sappiamo dalla nascita? Ma perché non è sempre antipatico sentirsi criticati, perché evidentemente la mia chiamata vuole essere una conferma che... il modo di vivere... Io non sono il paladino degli usi nazionali, quindi dica... con tranquillità e senza porsi problemi quali sono le differenze che più la feriscono nella carne e nello spirito. Lo spirito eterno è molto superficiale, anche questa ultima cosa che ha detto il professore lo conferma, legato all'estetica e all'apparenza. È molto importante che come appaio, come sono vestito, come sono ingioiato, profumato, la macchina nella quale sono seduto mi dia uno status. E poi poco ma questo è bello. Ma no, non è bello. Perché? È bello perché per contro dà, diciamo, una... Probabilmente il fatto di curare prende talmente tanto spazio, energia, il fatto di curare questa nostra immagine, che quindi ci toglie l'energia dovuta a poter dare anche, esprimere internamente nelle relazioni con le persone. Quindi è meglio una cosmesi interiore, meglio essere belli dentro, lei vorrebbe dire questo? Ma meglio sarebbe essere fuori e dentro, puliti e profumati, però diciamo che... Ma dentro tanto non si vede, qual è il problema? Scusi, io preferisco essere profumato fuori, dentro no, nessuno dentro ci mette il naso, se non poche persone. Dentro si vede, quando la sera andiamo a dormire, chiudiamo gli occhi e pensiamo alla giornata, allora pensiamo al dentro, non al fuori. Ma io non penso mai, spesso sono talmente ubriaco che non mi viene a pensare. La sto provocando naturalmente, guardi, è solo perché volevo capire cosa c'entra lo spazio con tutto questo. È questo, ed è bello per me poter vivere anche la parte quella dentro delle relazioni. Rientro una volta ogni 3 mesi nell'altro mio luogo di residenza. Sì, ma la parte interiore, la parte dentro la condivide oppure la vive da sola? Perché visto che stiamo parlando di spazi, no, spazi... la condivido con poche persone a me vicine che hanno lo stesso pensiero. E una di queste è lei. Ringrazio. Però non me ne sono mai accorto, vede qual è il problema? A me la vita è crudele, lei condivide con me uno spazio interiore che io non condivido perché non me ne sono mai accorto, magari mi perdo tantissimo. Grazie signora, arrivederci. Melog 2.0. Percezioni psicologiche dei colori delle pareti di interni. Parete gialla, eccitante, stimolante. Se troppo satura, irritante. Parete arancione, calda, luminosa, comunicativa, stimola il movimento. Parete rossa, trasmette solennità, passione, aggressività, potere, fa sembrare gli ambienti più piccoli e accoglienti. Parete viola, comunica insicurezza e disturbo. Parete azzurra, incoraggiante, tranquillità, freddezza, lontananza, aumenta la percezione di grandezza degli spazi. Parete blu, comunica sonnolenza, pesantezza, aumenta la profondità degli spazi. 80024, stiamo analizzando, come vedete, le possibilità che ci sono di avere delle sensazioni dell'ambiente che ci circonda, anche il colore delle pareti comunque, se risponde a una scelta ben precisa, se risponde alla necessità di dare delle sensazioni, è importante perché comunica qualcosa. Io ricordo che nelle campagne umbre degli anni 60 usava molto degli imbianchini che preparavano la stanza per gli sposi fare l'arlecchino, che era una cosa terrificante, con la tempera rosa, verdolina e celestina si faceva ogni parete della stanza di un colore diverso. Chissà questo mix di colori che sensazione avrà dato. Professor Marco Costa, che ha scritto il libro sulla psicologia ambientale architettonica da cui ci stiamo ispirando, ma realmente c'è qualcuno che fa un pensiero, un ragionamento sul colore delle pareti quando si organizzano gli ambienti in un'abitazione? Diciamo che è certo che noi associamo ai colori diverse emozioni e diversi stati d'animo. Nella tinteggiatura delle pareti domestiche si tendono a preferire colori neutri e tendenti a favorire la luminosità degli ambienti, e questo perché dipingere le pareti con colori molto saturi, questo va a decremento della luminosità e soprattutto al fatto che il nostro stato d'animo varia, e quindi se noi dipingiamo le pareti di rosso e quindi qualcosa di molto eccitante, poi lo troveremo in forte contrasto quando saremo di stati d'animi non concordi. Ecco, mi viene in mente una cosa, proprio sentendo Fantozzi, professore. Casa Fantozzi ha l'orripilante tappezzeria tipica degli anni 70, striscioni marroni, verde scuro e via dicendo. C'è stata un'epoca in cui, e posso definirla metà anni 70, metà anni 80, in cui la tappezzeria nelle case, la carta da parare, i rivestimenti dei mobili sembravano ansiogeni, necessariamente che portavano a dei sensi di afflizione. Quelle carte da parati con grandi striscioni marroni, verdi, a fiorami, era qualcosa che doveva dare ansia e angoscia? No, era qualcosa che era funzionale al fatto che si poteva rapidamente cambiare il pattern decorativo sostituendo la carta da parati. Ecco, c'è un aspetto molto interessante, ed è che noi tendiamo a riportare all'interno delle case e nelle decorazioni alle pareti quasi sempre dei motivi che sono quelli naturali. E nella carta da parati, così come nella tappezzeria, troviamo molto spesso fiori, foglie, frutti, elementi che ci riportano all'ambiente naturale, così come l'abitudine di mettere nature morte o di mettere quadri naturalistici o di mettere fotografie naturalistiche, e questo si rifà ad una tendenza innata molto forte nella nostra specie, che è quella della biofilia, cioè quella di associare caratteristiche positive, rilassanti e di equilibrio psichico a elementi naturali. Ma anche nell'architettura tradizionale degli edifici e delle chiese c'è sempre questo rifarsi a motivi floreali. Esattamente, è un tema ricorrente nella decorazione, quello di ripresentare motivi vegetali. Sentiamo Andrea. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Ascolti, niente, io prima avevo ascoltato che si stava parlando degli ambienti di luci, illuminazione più o meno, diciamo, forte. Volevo sapere, ecco, io quando vado nei centri commerciali o comunque sia in alcuni negozi, almeno personalmente, ho visto che sono molto illuminati, quindi la luce molto forte, chiara, e più, diciamo, c'è questa musica in sottofondo, soprattutto nei centri commerciali, dove, ecco, io ho saputo che viene messa per invitare a spendere anche di più, o comunque sia, cioè da un clima di festa e di paradiso sulla terra che dice ma sì, spendiamo, tanto siamo tutti felici, ecco, qualcosa del genere. Ecco, io volevo sapere se anche, diciamo, luce e musica, diciamo, hanno, se c'è una scelta precisa e se, sì, se influiscono. Sentiamo anche Umberto, sì, poi il professore risponde ad entrambi. Umberto invece ha una percezione tipo diversa. Umberto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. A lei la, allora, gente nelle stazioni sembra più triste che quella negli aeroporti. Assolutamente sì, cioè, l'ambiente condiziona il mio giudizio estetico. E poi adesso con il Frecciarossa dovrà rivedere un pochino, perché adesso è più sfigato chi prende Roma-Milano aereo piuttosto che prende il treno. Infatti, per esempio, a Termini, quando sono a Termini c'è un giudizio, la gente mi sembra brutta, cioè quando entro nel Frecciarossa la gente mi sembra diventa bella. Ma questo, guardi, c'è un esempio ancora. No, guardi, io viaggio molto. Più calzante, perché io, per esempio, frequento uffici pubblici, faccio l'avvocato, no? E c'era il vecchio ufficio del registro a Via Plinio, che era, sì, un ambiente bruttissimo degli anni 70, in formica, con quegli armadietti grigi osceni. Impiegati marciti, con le unghie e gialle. La gente, gli impiegati mi sembravano bruttissimi. Ancora con l'unghia del mignolo lunga, pensi? Esatto. Gli stessi impiegati, che ora sono allergifi, all'argo mossa, insomma. Sono degli strafighi. No, strafighi no, ma sono migliorati molto. Sentiamo un po', sentiamo il professor Marco Costa di queste due impressioni. L'ultima è molto divertente, però è condivisibile, è vero. La sfigaggine del luogo rende sfigato anche chi l'abita. Gli ascoltatori hanno toccato due punti estremamente interessanti. Riguardo al primo punto, cioè le luci e la musica negli ambienti commerciali, qui è veramente molto interessante, perché il motivo psicologico dell'introduzione della musica nei centri commerciali, ma questo anche nei pub, è quello di diminuire la percezione del sé, e diminuendo la percezione del sé del cliente si allargano i cordoni della borsa. Il cliente si sente molto più libero. L'ultima cosa sugli ambienti tristi, visto che la sigla incombe e ci toglie spazio. Sì, è vero, nel senso che il nostro stato d'animo è in funzione del luogo in cui siamo, e quindi se ci troviamo in un ambiente attraente, anche in questo caso il nostro comportamento. Io ricordo cambia. Improvvisamente che l'altra notte ho dormito in un alberghetto, c'era una luce di sicurezza verde accesa tutta la notte, che mi ha dato un senso d'angoscia. Mi vedevo verdastro, mi sentivo un UFO, mi sono sentito molto a disagio. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.